Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a questa nuova trasmissione Per fare un branco ci vuole un lupo. Esatto, buongiorno da me Andrea e da me Morena e da tutta la tribù ovviamente di cani, rapaci, gatti e tartarughe di terra e quant'altro se vogliamo dirla anche. Bene, oggi parliamo di un argomento che ci tocca da vicino, insomma. Ma in realtà tocca a tutti noi, mica solo le due. Esattamente. No, infatti un ci tocca era un plurale generale, proprio mondiale addirittura, se vogliamo. Universale, planetario, intergalattico. Vabbè, fermiamoci al mondiale per il momento, fin tanto che non avremo l'astronave di James T. Kirk per il momento. Rimaniamo sulla... Sai chi è James T. Kirk, tu, vero? Ovvio che sì. Chi è? Non fare domande imbarazzanti, cioè ti dico ovvio che sì, mostrando una certa sicurezza, basta, no? Che vergogna. Vabbè, James T. Kirk, James T. Kirk, se vogliamo dirla in forma più internazionale, è il capitano della USS Enterprise di Star Trek! Ma avessi detto l'Enterprise, cioè, voglio dire, per arrivare là dove nessun uomo è mai stato prima. Vabbè, data astrale, vabbè, fa niente. Lasciamo perdere, non importa, va bene così. Se vuoi ti posso cantare tutta Kismilicia. Anche no, grazie. Bene, parliamo appunto del branco, torniamo quindi a qualcosa di più interessante, così insomma. E quindi volevamo parlare appunto del branco. Che cos'è il branco? E soprattutto, oltre quello lupino, ovviamente quello dei lupi, cosa serve quindi l'attività specifica che noi svolgiamo, quindi come applicarlo nella vita di tutti i giorni con enormi, immensi, grandiosi benefici nella vita, nelle relazioni, nel business, nelle performance, eccetera, giusto? Sì. Bene. Dunque, parlando del branco di lupi, se ne dicono sempre un sacco, ovviamente, no? Come citavamo nell'altra puntata, spesso si cita che è il capobranco, esatto, maschio super, cattivo, si picchia tutti e tutti gli altri eseguono, quindi una quasi dittatura. Diciamo, una dittatura, se vogliamo, o comunque un qualche cosa di molto piramidale. Inutile dire che non è assolutamente così, anzi è tutto il contrario. In realtà, come dicevamo già l'altra volta, assomiglia più a una tavola rotonda, se vogliamo, un po' la tavola rotonda di Re Artù, se vogliamo dirla in maniera più poetica. Esatto, cala caramellino. In sostanza quindi abbiamo in realtà due figure principali che sono appunto gli alfa, poi abbiamo i delta, i beta, gli omega e i gamma. Ma prima di questo parliamo proprio dell'organizzazione del branco. Il branco è strutturato, come dicevamo prima, con un'energia circolare. Un'energia circolare in cui ogni individuo sa che il branco è sempre al centro di tutto, giusto? Il branco è brancocentrico, dicevamo. Eh sì, perché comunque la parola magica è sempre la collaborazione. Esattamente, la collaborazione ovviamente la fa da padrona in tutto ciò che andremo poi ad analizzare in tutte le puntate da qui in seguito. Quindi il branco, come dicevamo, è circolare, in cui ogni individuo sa perfettamente qual è il suo ruolo e sa perfettamente come svolgerlo nel migliore dei modi. In più il branco di lupi ha una struttura estremamente armoniosa. I lupi hanno una consapevolezza di loro stessi molto elevata. Mi ha incuriosito, magari qualcuno di voi, spero, non segue i telegiornali, no, non li seguiamo mai per tanti motivi. Comunque sia, purtroppo ieri sera eravamo in un luogo in cui si sentiva parlare del telegiornale. E siamo in un momento in cui ovviamente l'Italia è ferita da diversi terremoti, insomma, purtroppo. Oltre a questo fatto di cronaca molto triste, citavano di questo bambino che in un'ulteriore scossa è scappato di casa per paura appunto di subire altre cose brutte, ovviamente. Sì, più che altro come la stella era scioccato proprio da sentire un'ulteriore scossa. Quindi molto triste ovviamente quello che è accaduto, ovviamente. E la cosa che mi è saltata e ci è saltata all'orecchio è che questo bambino ha identificato il terremoto, quindi qualcosa che per lui era brutto, qualcosa che per lui non era bello, ovviamente, che è entrato in casa sua, con due figure, secondo lui, ovviamente, che portavano portatrici di male, in realtà. Ma in realtà, comunque, quello di cui si parlava, sì, è partito dalla storia di questo bambino, ma si parlava comunque dell'intera comunità di bambini che raffiguravano come gufi e lupi. Esattamente, qualcosa di negativo. E questo ovviamente è una programmazione idiota della nostra cultura, purtroppo, senza entrare troppo ovviamente nella teologia o quant'altro, perché sennò vi annoieremo, ma magari ne potremo anche parlare in seguito. In realtà il lupo nella maggior parte delle culture non è assolutamente visto come qualcosa di brutto, anzi, il lupo ha una saggezza interiore estremamente elevata, pensate. Giusto come aneddoto, addirittura una mamma lupa in un periodo di particolare carestie o sofferenze in grado di, qualora appunto sia in stato interessante, quindi incinta, addirittura di far rientrare, quindi di assorbire la gravidanza stessa per non arrecare ulteriori danni ad eventuali cuccioli o prole che potrebbe poi avere. È proprio quindi il dono di non dare sofferenza. Esatto, quindi in realtà tutto il contrario. E ha colpito questa storia perché ovviamente i bambini non ne possono niente, poverini, anzi, ripeto, la nostra solidarietà va a tutti, ovviamente le popolazioni devastate in questo momento l'abbiamo vissuto anche noi in quelle zone, quindi sappiamo, senza aver avuto danni, però sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi va tutta la nostra solidarietà. Allo stesso tempo, questo fatto mi ha dato lo spunto per pensare quanto in realtà la cultura sul lupo e sul gufo, ne parleremo anche poi in seguito di questo, sia estremamente deviata dalla nostra cultura, che non ha nulla a che vedere con la reale, diciamo, natura. Quindi, che non li conosciamo, quindi tutto quello che non conosciamo spaventa. Sai com'è uno dei miei detti, no? L'uomo ha paura della bestia che vive dentro il lupo perché non conosce la bestia che vive dentro di lui, quindi in realtà è proprio così. È vero anche che noi siamo, almeno quello che ci dicono, che discendiamo dai primati, quindi in realtà la struttura piramidale è più simile a quella dei primati. In realtà quello che potremmo imparare dai lupi sicuramente è proprio questo, quindi questa concentricità, questo essere circolari ed essere soprattutto brancocentrici. Non sono né alfacentrici, né betacentrici, né quant'altro, sono brancocentrici, quindi ogni lupo sa perfettamente, sa collaborare. No, a parte quello intendevo, sa che l'individuo singolo è orribile comunicare con te perché non è un dialogo, ti ma fermi a un certo punto e dici ok, se non sei sulla tua linea d'onda, cioè vabbè, stavo pensando a Saturno e quanto si è risentito quando i bimbi hanno raffigurato la paura con il gufo. E Saturno è il nostro gufo reale. Ah sì, Saturno è il nostro gufo reale. Sì, no, ho capito, ogni tanto Morena nel suo essere Omega viaggia un pochino, comunque no, intendevo. Ma parliamo, che cosa vuol dire essere Omega? Poi ne parleremo sicuramente, e quindi diciamo che in qualche modo c'è questo essere, come dicevamo, importante, in cui ogni lupo sa perfettamente che il branco è più importante del singolo. Pensate se questo fosse applicato ad aziende, fosse applicato a famiglie, fosse applicato a gruppi sportivi, in cui si sa perfettamente che la pluralità, ecco, mi veniva la parola, è meglio che la singolarità. Pensate per i gruppi politici, per qualche nostro politico, anche questa cosa qua. Ma lasciamo stare. Quindi all'interno ci sono poi diverse figure. Come dicevamo, abbiamo quindi gli alfa. Gli alfa sono sempre due, maschio e femmina, e sono coloro che gestiscono il branco, cioè attraverso una corretta leadership fanno star bene il branco. Quindi in sostanza sanno individuare i talenti di ognuno e sanno posizionare ogni individuo nei giusti ruoli. Quindi ogni talento ovviamente viene messo a frutto per quello che è il suo maggior talento. Se vogliamo parlare di pregi e difetti, qual è il pregio dell'alfa? Il pregio dell'alfa è di riconoscere i talenti di ciascuno. Ok, e se gli alfa stanno bene? Sta bene tutto il branco, esatto. Si vede subito se un branco ha due buoni alfa, perché il branco prospera, c'è felicità, c'è armonia, e c'è allegria e benessere. Se invece gli alfa non sono estremamente capaci, il branco si sfalda. Esatto. Molto molto semplice. Per quanto riguarda gli alfa è molto molto diretto. Se esiste un branco, a meno che non si sia appena formato, vuol dire che gli alfa tanto quanto riescono a barcamenarsi. Per quello che riguarda invece la società umana, quindi applicarla direttamente nella società umana, gli alfa, chi sono gli alfa? Ma tendenzialmente una famiglia dovrebbero essere la coppia, quindi mamma e papà, se vogliamo. vogliamo parlare di famiglia con figli, eccetera. Esattamente come siamo io e Morena in questo momento. Ah, siamo mamma e papà! Sì, svariati individui. E... di specie differenti. Esatto. Quindi noi siamo gli alfa che gestiamo ovviamente tutto il nostro branco, cercando di fare il meglio e quindi di metterli nelle corrette posizioni, quindi nei corretti ruoli di ognuno, e per fare in modo che ognuno si senta bene. Dove ognuno possa performare al meglio. Esattamente. Quindi questo è per quello che riguarda la famiglia. In un gruppo sportivo, in un'azienda, in un gruppo politico, in realtà gli alfa potrebbero essere non sempre maschio e femmina, potrebbero essere, ad esempio, in una società potrebbero essere i due soci. Potrebbero essere... E quindi non maschio e femmina. Non maschio e femmina. E non coniugi. Non coniugi, più che altro. In realtà loro, anche loro, se vogliamo vederla dal filtrata dal punto di vista lupoide, i due soci possono manifestare un'energia più mascolina o più femminile. Però è un discorso di energia, esatto, più mascolina o femminile, non necessariamente di genere. Assolutamente no, tant'è che infatti l'energia femminile negli alfa sappiamo essere quella predominante. E mica sono in loro. Esatto. Quindi in qualche modo supponiamo che ci siano due soci in cui un socio ha il 60% e l'altro socio ha il 40%, tendenzialmente, almeno così dovrebbe essere, colui che detiene il 60% è colui che ha un'energia più femminile. Questo spesso non è così, diciamo che gli alfa non è detto che siano così palesi, tant'è che molto spesso nelle nostre attività abbiamo riscontrato che in realtà gli alfa dovevano essere i due soci. In realtà gli alfa non erano per niente due soci, lo era uno di questi e l'altro magari alfa stava a casa. Esatto, era la moglie o il marito di questo socio. Molto più spesso di quanto voi possiate immaginare, colei che prende le decisioni, colei perché spesso ci è capitato così, colei che prende le decisioni è colei che non figura. Esattamente, anzi più che molto spesso direi quasi sempre, quindi anche per voi magari imprenditori che andate a fare un affare, ricordatevi che magari state parlando con una persona che in quel momento non è l'alfa, anche se teoricamente sembra, perché dici ok, sto parlando con l'imprenditore tal dei tali di questa azienda che porta pure il suo cognome, chi è? E in realtà fai un bel accordo, tutto a posto, dice ah, fantastico, ci piace tantissimo. Il giorno dopo arriva perché ha parlato con la moglie o col marito, se vogliamo. Ma magari neanche di quello, cioè semplicemente parlando, sì, a esatto, casa, semplicemente salta. Arriva il giorno dopo e dice no, questo accordo non sa da fare, come si dice il caro Don Abbondio. Quindi bisogna fare estremamente attenzione e capire chi veramente manifesta l'energia alfa. Non sempre gli imprenditori, i capifamiglia, i capitani di squadra, piuttosto che gli allenatori, piuttosto che il leader politico, rappresentano un'energia alfa. E non avere un alfa alla leadership è un grosso, grosso, grosso guaio. Questo perché vediamo gli altri ruoli. Esatto. Dopodiché abbiamo il beta. Il beta è la figura quella più guerriera, se vogliamo, quella che manifesta un'energia più... più mascolina talvolta, anche se non è detto che sia sempre maschio o femmina. Anzi, nella specie umana abbiamo verificato che tendenzialmente gli uomini con cui ho avuto a che fare, tendenzialmente ho riscontrato essere degli enormi mollaccioni. Nonostante tutti si sentano beta. Nonostante tutti, il maschietto solitamente si sente beta, quando in realtà di beta non c'è una circola. Però insomma va bene così. E ormai ne ho fatto pace con questa roba qua. E tutte le volte si deprime di questa cosa. Mi deprimo tantissimo, anche perché io rappresento, oltre che essere alfa, anche un'energia beta piuttosto importante, lo dice il mio passato anche nella Polizia di Stato. Detto questo, insomma, diciamo che quindi l'energia beta è colui, il beta è colui che difende il branco, difende soprattutto gli alfa, e tendenzialmente l'unico che può assurgere a diventare alfa, quindi potrebbe cercare di mordere il maschio alfa, o comunque sfidare il maschio alfa, meglio così. Le sfide tra l'altro sono tutte non violente, per cercare di sistemarsi a posto della coppia leader. Qual è il pregio del beta? Beh, che difende sicuramente tutta la parte di sicurezza. Se voi la mettete in mano o tra i denti di un beta, sicuramente saprete che quel ruolo verrà affrontato con la massima serietà e con le sfide portate a termine, ecco. Esatto. Il difetto? Che ama mordere, esattamente quello che è il pregio, è il suo peggior difetto, può essere il suo peggior difetto, perché è un beta non controllato, è un beta che può mordere all'interno, se non ci sono sfide all'esterno, lui inizia a guardarsi intorno e inizia a trovarsela, a cercarsela all'interno del branco. Si dice, come corretta frase per un beta, che è un mantra che mi sono ripetuto anche per tantissimo tempo, è proprio: un guerriero senza pratica spirituale è soltanto un assassino. Quindi un beta saggio da un beta non saggio, da un beta impazzito. Il beta impazzito cerca di fare guerra ovunque. Il beta saggio sa perfettamente quando è il momento di scendere in campo, oppure quando è il momento invece di starsene nelle retrovie e quindi non muoversi o mandare avanti magari chi invece poi, quando spiegheremo altri ruoli, siano più i diplomatici, se vogliamo. Ecco, quindi questo è il beta. E sì, tendenzialmente nel lupo è il più grosso e più forte, se vogliamo dirla così. C'è anche un bellissimo sfottò per i beta, che quando io prendo in giro Andrea sulla sua energia beta, gli dico sempre: Andrea, ti lancio un osso così vai a mordere qualcosa e non stressi la vita in casa. Esattamente. Dun, tra l'altro, che il nostro pastore belga è un beta, anche se in questo momento non sembra, perché è bello sdraiato a dormire in maniera placida e tranquilla. Ha più la faccia da Sid il Bravo, esatto, in questo momento, che da cane beta. Ma andiamo avanti con un'altra figura molto importante, che è il Delta. Che non è quello del Po, tra l'altro, vabbè, la battutaccia, lo so. Comunque il Delta è la figura quella specialistica, cioè colui come individuo intendo, non quindi nel senso inteso in senso maschile, ma è colui che si specializza in maniera quasi maniacale su determinati tipi di aspetti. Un lupo potrebbe per esempio specializzarsi particolarmente nella caccia piuttosto che nell'esplorazione piuttosto che in altre figure. Il Delta, se volete vederlo nella parte umana, è colui che ama tantissimo un determinato tipo di settore, si iperspecializza, quindi ne sa tutto di quel settore. Noi avevamo un nostro collaboratore che era specializzato sul fuoristrada, sapeva qualunque cosa sul fuoristrada, addirittura il bullone che ha montato da quell'anno in poi, esatto, l'ammortizzatore destro. Addirittura si è riuscito a inventare una tanica ausiliare da infilare appunto sul fuoristrada, e insomma ha fatto degli ottimi lavori. Il Delta è quindi una figura di estrema importanza all'interno del branco, come tutti ovviamente, perché ovviamente ti dà la sicurezza di un determinato tipo di attività. Ma anche qua, qual è il pregio del Delta? Il pregio del Delta è che dare una situazione, come può essere ad esempio per quanto riguarda le aziende, la parte informatica da gestire a un Delta specializzato in informatica ti assicura che tutta la tua azienda non avrà mai problemi ai computer, avrà sempre il software più aggiornato, avrà sempre l'antivirus aggiornato, scaricato e tutti i computer pronti a lavorare. E invece il difetto? Che si fa gli stracavoli suoi. Esatto. Nel senso che un Delta, se non spesso e volentieri aiutato a partecipare all'interno del branco, tende un pochettino ad isolarsi e continuare a iperspecializzarsi, venendo un po' meno, ecco, ai doveri nei confronti del branco. Non solo, tendenzialmente è la stessa persona che un po' si rompe un po' le scatole, tra l'altro, tra le altre cose, di magari avere qualcuno che lo aiuti, perché per lui è un intralcio tendenzialmente. Ah, poi sono bellissime le dinamiche, perché con un Delta, se voi andate a chiedergli posso darti una mano, diventa una cosa tipo no, certamente no, quasi un insulto, diventa, no? Quasi idrofobo. Quasi un insulto, più perché è infastidito dall'averti vicino che non... Esatto. Ma passiamo a un'altra figura, ne rimangono ancora due. Abbiamo l'Omega, finalmente. Ta-da! L'Omega è per molto tempo è stato quasi bistrattato, quasi come se fosse l'ultima ruota del carro, tra virgolette, un'enorme panzana anche questa qua, perché ovviamente non ha alcun senso. In realtà l'Omega è una figura di estremo rilievo all'interno del branco, perché è colui che nel proprio ruolo dà finalmente l'equilibrio del branco, perché è il diplomatico, perché a un beta viene strano parlare, esatto, di equilibrio. È il diplomatico di turno, quindi stempera le tensioni, non ama per niente che all'interno del branco ci siano tensioni, addirittura è disposto persino a farsi mordere pur di attenuare certe tensioni, è preposto alla cura, è un giocanellone, gli piace quindi essere molto molto diplomatico, molto appianatore all'interno del branco stesso. Ecco perché è un diplomatico ed è il vero equilibrio importante. Anche qua l'Omega ha dei pregi e dei difetti. Qual è il pregio dell'Omega? Beh, il pregio dell'Omega è di pensare a tutti, quindi avere un pensiero per tutti. Se voi dovete fare cioè è il momento di fare un regalo all'interno della vostra azienda, avete una persona che ha un talento Omega, sicuramente quella persona saprà indicarvi qual è il miglior regalo per la persona. Tendenzialmente partirà lei già, anzi l'avrà già fatto praticamente. Creando il bigliettino fatto apposta, esatto. con mille fiocchetti, con mille cose. Esattamente. Il pre invece, il difetto dell'Omega... Non c'è. C'è. Non è vero? Non è vero? Dai. Vabbè. Il difetto dell'Omega è che, vabbè, tende un pochettino a disperdere le sue energie. E soprattutto se messo in un ruolo, se si sente un ruolo che non è suo, quale talvolta è il beta, fa un gran casino. Questo perché gli Omega non sono preposti a mordere. E quindi quando si trovano a mordere, succede, mordono un po' qua un po' là. Fanno anche male, tra l'altro, fanno più male del beta, tra l'altro. Eh beh sì, perché mordono quasi il morso per paura, quindi esatto. In realtà stanno combattendo per la loro vita, anche se in realtà non c'è un vero e proprio esatto. attacco di questo genere. E l'ultimo ruolo, ma non ultimo come importanza, ma semplicemente come scala di quello che stavamo raccontando, è il ruolo gamma. Il ruolo gamma è un ruolo all'interno del branco, anche lui molto molto importante, è un ruolo multifunzione, viene detto, quindi che fa diverse cose. Non si specializza particolarmente in nessuna e ne fa diverse, tutte ovviamente con dei buoni risultati, non con degli ottimi risultati, ma con dei buoni risultati. Quindi è un multitasking, se vogliamo, che non ama per niente la responsabilità. Tendenzialmente il gamma non ama che gli venga data una grossa responsabilità, se non quella strettamente necessaria. E quindi se è fatto in questo modo, sicuramente una figura diciamo da cui affidarsi. Quindi il pregio del gamma è appunto che sa essere un jolly, quindi è affidabile in quasi tutti i ruoli. Invece il difetto, ahimè, del gamma è che se messo sotto pressione va in crash. Esatto. Sclera, non sa più cosa fare, tendenzialmente istintivamente farà la cosa peggiore. Esatto. Tra l'altro il gamma tra tutti è un'ottima sentinella per quello che riguarda eventuali pericoli o eventuali difficoltà, è in grado di segnalarli in tempo reale quasi. Bene, questi quindi sono i diversi ruoli all'interno del branco. Ma non abbiamo dato l'aggiornamento di Soyala noi. Non abbiamo dato l'aggiornamento di Soyala. Soyala siamo ormai pochi giorni dalla sua dal parto e quindi sì, vedremo se il prossimo appuntamento saranno già nati i cuccioli oppure i cuccioli scalciano, che è una meraviglia. Detto questo, quindi questi sono i ruoli del branco, come dicevamo, e provate voi ora che avete ascoltato con attenzione appunto i diversi ruoli, provate voi a pensare nella vostra famiglia, se non nella vostra azienda, nel vostro gruppo sportivo, nella vostra associazione di volontariato, piuttosto che nella vostra associazione politica, piuttosto che nella bocciofila. Vabbè, comunque, nella bocciofila, provate a verificare quale possa essere non solo il vostro ruolo all'interno di quel determinato tipo di branco, ma quale possono essere i ruoli delle persone che vi stanno accanto. E soprattutto provate a verificare se in qualche modo questi ruoli che sembrano essere palesi siano più tendenti al difetto o tendenti al pregio. Quindi provate a vedere appunto secondo l'attitudine di ognuno se sono più tendenti da una parte o dall'altra. Sicuramente scoprirete qualcosa di interessante. Se volete interagire con noi, andmoretrainer.com è il nostro sito, ovviamente, ma tanto ci sono tutti i riferimenti. Noi siamo ormai prossimi all'attività del PEC System, che ne parleremo poi ampiamente anche nei prossimi appuntamenti. Per qualunque tipo di informazione non esitate a contattarci. Per il momento, quindi, terminiamo quindi con questa bella tavola rotonda, appunto, e ci sentiamo, direi, al prossimo appuntamento in cui parleremo nello specifico di tutti i ruoli. E di come questi possono lavorare insieme, collaborare all'interno della famiglia. Esattamente. Detto questo, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana con... Per fare un branco ci vuole un lupo. Esattamente, alla specie prossima. Non classificata. Alla prossima. Alla prossima. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao.